L'ultimo aspetto poi è infatti proprio questo, che riguarda le istituzioni e come si sono poste rispetto a questa grande opera, giù, dalla Comunità Europea fino al sindaco di Melendugno, che è il luogo, insomma, dove dovrebbe approdare, nella sua marina di San Foca, dove dovrebbe approdare questo gasdotto. Mentre le istituzioni locali fino alla Regione Puglia si sono espresse in maniera contraria a questo gasdotto, quest'opera invece è fortemente sostenuta dalla Comunità Europea e dal governo italiano. E in particolare la Comunità Europea, che sta dando una grossa spinta, sia cercando di finanziare in qualche modo questa grande opera, ponendola nelle opere strategiche, nelle opere finanziabili appunto insieme ad altre, e sia quindi da un punto di vista economico che da un punto di vista politico, no? Cercando di dare una grossa spinta perché quest'opera venga realizzata. Detto questo, però, c'è stato un passaggio significativo in questi mesi giù nel Salento, perché, cioè, secondo noi c'è stato un po' un tentativo di provare a sperimentare non un'imposizione di quest'opera, così come avviene in altri luoghi, come può essere appunto la Val Susa o altrove. Quindi non l'imposizione netta e dura da parte delle istituzioni e da parte della multinazionale, ma il tentativo di cercare di Centrale. convincere, no, soprattutto di convincere, di far partecipare, di provare a dare la parola alle persone del luogo. E infatti ci sono stati vari tentativi organizzati dalla Regione Puglia in maniera concordata con il governo italiano di trovare dei momenti di incontro e di partecipazione, proprio per spingere su questo livello, no? E far passare questa idea che quest'opera non doveva essere appunto imposta, che un'altra Val Susa doveva essere evitata, che il conflitto sociale doveva essere assolutamente evitato. Ma appunto c'era l'idea da parte sempre delle istituzioni, da parte della multinazionale, che bisognava dialogare, partecipare, eccetera, eccetera. Infatti sono stati organizzati questi momenti che sono stati definiti, che si chiamano OST, che sta per Open Space Technology, che è una forma di discussione che è mutuata dagli Stati Uniti e dalla. Che è mutuata dagli Stati Uniti e dall'impresa americana, insomma, queste forme partecipative a livello di impresa negli Stati Uniti, questi momenti di incontro in cui appunto vi erano dei principi cardine di questa forma di partecipazione, che erano addirittura l'informalità, l'orizzontalità, il mettersi in cerchio, un po' il conflitto la conflittualità diffusa, un po' delle forme che, o comunque un linguaggio che insomma in qualche modo noi conosciamo, no? O delle modalità che noi conosciamo, appunto l'orizzontalità o il mettersi in cerchio a discutere o l'informalità, e quindi delle modalità, degli elementi che sono stati mutuati a livello economico, che sono stati adottati in questa occasione praticamente, nel tentativo di far passare una grande opera senza appunto doverla imporre, ma cercando di convincere le persone che si tratta di un'opera necessaria, che si tratta di un'opera strategica, che si tratta di un'opera utile e che in qualche modo ci serve, che non si può fare a meno di quest'opera e che quindi bisogna farla passare, e quindi bisogna farla passare in maniera indolore, no? In maniera soft, così, in maniera tranquilla. Probabilmente, insomma, TAP e la Regione Puglia non sono riusciti in questo intento, insomma, noi ci auguriamo che non siano riusciti in questo intento di pacificare tutto quanto e di rendere quest'opera gradevole. E gli animi come sono lì da voi? Per cui, insomma, quello che secondo noi bisognerebbe fare, al di là della questione, quindi non parlare come fanno appunto le istituzioni di partecipazione, non sdoganare nuovamente la politica, no? Come forma per opporsi, ma quello che noi stiamo cercando di fare è un po' quello di coinvolgere chi vuole opporsi a quest'opera, però appunto partendo sempre in prima persona, non delegando a nessun altro, opponendosi orizzontalmente, eccetera, eccetera. Insomma, e gli animi sono In alcune occasioni sono abbastanza accesi, tipo c'è stato per esempio uno di questi momenti che era il 27 dicembre scorso, in cui era il momento conclusivo di questi host, di questi momenti di partecipazione, in cui era presente il sottosegretario all'economia, erano presenti i membri della multinazionale, erano presenti i membri della regione Puglia, e le persone che erano all'interno di questa sala dell'università di Lecce erano molto incazzate, e per fortuna c'è stato un momento, insomma, spontaneo di rabbia e di... Questo è il territorio, diciamo così, no? No, ma più che altro anche di... cioè le persone inveivano contro le istituzioni e contro la multinazionale, no? Erano proprio erano momenti accesi in cui si diceva: ci avete rotto le scatole, ve ne dovete andare, quest'opera noi non la vogliamo, andatevene e basta. Insomma, non ci sono altre possibilità, non c'è la possibilità di dialogare, non c'è la possibilità di trovare una soluzione, e quindi molto semplicemente, insomma, senza... Per il resto, insomma, è una situazione che si vedrà man mano, perché non esiste un cantiere, insomma, se si riuscisse, insomma, a fermarlo subito, prima che parta, insomma, è sicuramente la cosa migliore, no? Senza che questo sia un punto, cioè questa cosa qua non deve accadere proprio, cioè, non si deve arrivare al punto di Chiomonte, o arrivare che stanno a ruspo in casa con le trivellazioni. Cioè, non drip significa che non devono fare neanche le perforazioni per vedere se c'è qualcosa.